Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato e benvenuti alla nostra rassegna stampa europea. Potrete immaginare, insomma, quanto inchiostro è stato usato, quanti articoli sono stati scritti in questi giorni per commentare, per interpretare o anche soltanto per rendere conto dei risultati delle elezioni europee. Ne abbiamo letto tantissimo anche sui nostri giornali, quindi mi piaceva un po' concentrarmi magari sui risultati di quei paesi che, forse perché sono piccoli, forse perché sono meno eclatanti, sono passati un po' in secondo piano. Internazionale, che è in edicola da ieri, dedica naturalmente la copertina alle elezioni europee, ed è proprio da Internazionale che vi segnalo un articolo apparso sulla rivista Information danese, che si intitola Nazionalisti in Danimarca. Ve ne leggo una piccola parte. Chi poteva immaginare che potesse succedere davvero? Il Dansk Folkeparti, partito del popolo danese, populista e xenofobo, è stato il più votato alle europee. La politica danese è cambiata, forse per sempre. Il DF potrebbe facilmente essere bollato come un partito rozzamente populista e opportunista, ma sarebbe troppo facile. In realtà, spiega ancora questo articolo, i partiti di centrodestra hanno dichiarato di sostenere l'Unione Europea mentre ne minavano di fatto uno dei principi fondamentali, la libera circolazione delle persone. Nel dibattito sul cosiddetto turismo del welfare, a proposito degli assegni familiari ai lavoratori di altri paesi dell'Unione Europea, i liberali e i conservatori hanno cercato di soffocare DF in un abbraccio mortale, adottandone la linea politica. E un altro paese che ha avuto un risultato eclatante per un altro verso, cioè l'affluenza forse più bassa in assoluto, è la Slovacchia. E allora qui vi segnalo l'articolo Urne deserte, apparso sulla rivista SME. E qui ve ne leggo una piccola parte. Alle elezioni europee in Slovacchia ha votato un cittadino su otto, pensate. Anche se è vero che la politica europea può sembrare lontana, noiosa e difficilmente comprensibile, questa è comunque una cattiva notizia. Con una partecipazione così bassa, ogni interpretazione dei risultati elettorali diventa discutibile. E in queste elezioni non ci sono stati vincitori, ma soli perdenti. Vi leggo ancora una piccola parte che riguarda appunto Bruxelles. Il primo ministro slovacco Robert Fico e altri leader politici hanno parlato di un paradosso slovacco. In altre parole, ritengono singolare che gli slovacchi non partecipino alle elezioni europee pur avendo un'ampia fiducia nelle istituzioni di Bruxelles. Per risolvere questo paradosso forse basterebbe che i partiti prestassero maggiore attenzione alle competenze sulle questioni europee dei candidati e alle loro capacità comunicative e che non scegliessero come capilista delle figure scialbe, evidentemente ricompensate con un saggio europeo solo per qualche utile servizio reso. Purtroppo sicuramente una cosa che è capitata anche in altri paesi, in passato anche in Italia. Speriamo questa volta le cose siano andate diversamente. Passiamo a un ultimo paese, un altro focus, quello dell'Ungheria. Anche l'Ungheria è un paese dove la destra ha avuto degli ottimi risultati, tant'è che appunto questo articolo della rivista Nepse Zabadzak, scusate naturalmente la difficoltà a pronunciarla, è destra senza rivali. In Ungheria ha vinto la destra del difensore della patria Viktor Orban, un leader che all'occorrenza sa spostarsi al centro. Sempre più spesso indossa i panni del gentiluomo e del padre della nazione, spiega per esempio un sociologo ungherese, Gyorgy Szlobozai. Il risultato delle europee segna un ulteriore passo verso il consolidamento di uno Stato autoritario, nazionalista e populista. A quanto pare la tarìa dell'attrazione del vincitore ha funzionato. Alle elezioni politiche infatti Orban aveva vinto con poco meno del 45%, il 25 maggio, pensate, ha superato il 51%. E come settimana scorsa abbiamo poi un'analisi di Bernard Guetta, apparsa su Libération, un giornalista francese, e qui forse c'è un tono un pochino più ottimista, perché se dobbiamo cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno, nonostante i risultati appunto di questi partiti xenofobi e populisti, è che c'è stato uno scossone. E allora scrive Guetta su Libération: le elezioni che hanno scosso l'Europa hanno dimostrato fino a che punto il crollo dell'Unione Sovietica ha cambiato lo scacchiere politico continentale. La destra non è più cementata dalla paura del comunismo, mentre la sinistra non è più definita dal rifiuto del capitalismo. Con alcune eccezioni che confermano la regola, il concetto di economia è stato generalmente accettato. E quindi, insomma, si potrebbe aprire effettivamente, forse in questa sempre più difficile definizione di destra e sinistra, con tutti gli equilibri politici che questo comporta, forse si potrebbe aprire una nuova fase anche grazie a questi risultati. Restiamo un attimo in Francia, perché c'è l'altro obiettivo a cui dobbiamo guardare a questo punto, è l'elezione del Presidente della Commissione Europea. Ho chiesto a Sergio Nava, il nostro grande esperto qui a Radio 24 di questioni europee, e lui mi ha spiegato che da una data certa esatta non c'è, e che comunque il voto è anche qui molto particolare. I meccanismi europei sono molto particolari. È vero che sarà il Parlamento europeo, e abbiamo visto come ha sorpreso tutti la composizione di questo Parlamento, a votare il candidato, ma è anche vero che il candidato sarà espresso durante un consiglio che dovrebbe tenersi alla fine di giugno, un consiglio europeo. Quindi in realtà il Parlamento dovrebbe ratificare, ma non è detto questa volta che sia un passaggio così scontato. E allora vediamo, per esempio, Le Monde, che a proposito di candidati alla presidenza della Commissione europea, che lo ricordiamo un po' il governo dell'Unione europea, e quindi il presidente è un po' il premier dell'Unione europea, Le Monde scrive: e se Michel Barnier finisse per vincere, la candidatura del francese alla presidenza è chiaramente rilanciata. È un ex ministro dell'UE. MP, ex commissario europeo, quindi grande esperienza. E siccome sapete che la candidatura di Jean-Claude Juncker, che sembrava così forte perché comunque è espressione del Partito Popolare Europeo, che nonostante la debacle in alcuni sensi resta il primo partito del Parlamento, a rigor di logica dovrebbe essere Juncker il candidato, però sapete che in questi giorni si stanno facendo tante altre ipotesi, e quindi appunto Le Monde lancia la candidatura, ma guarda caso, di un francese. Vi segnalo invece da Financial Times, appunto a proposito di Juncker, un articolo che proprio ieri invitava i 28 leader europei a letteralmente scaricare Jean-Claude Juncker per due ragioni: perché la sua scelta è una discutibile appropriazione di potere da parte del Parlamento dell'Unione Europea, che appunto lo vede legittimo solo perché è espressione del partito più numeroso all'interno, più rappresentato all'interno del Parlamento europeo, e perché rappresenta tutto quello che gli elettori di protesta contestano all'Europa. È un editoriale, questo di Financial Times, quindi è proprio una presa di posizione. E tra l'altro, e non è scontato neanche questo, perché Financial Times ha comunque delle opinioni, sì, insomma, mai allineate a quelle di un singolo governo, però in questo caso è la stessa opinione di David Cameron, come abbiamo sentito anche nei giorni scorsi, nei reportage, per esempio, di Leonardo Maesano da Londra. Cameron, infatti, che è il premier britannico, si oppone chiaramente alla candidatura di Juncker. Vedremo, insomma. A proposito cambiando un pochino argomento, però restando su Financial Times, ricorderete che qualche 10 giorni fa circa c'è stato un ricalcolo dell'economia italiana, includendo il nero, il nostro famigerato nero. Ecco, questa questione dell'economia nera, grigia, sommersa sta toccando anche Financial Times, che si chiede anche se non sia veramente il momento, per quanto tabù possa essere questo, di rivedere alcuni calcoli del PIL, perché nelle economie con gradi diversi ci sono anche queste voci. E quindi spiega, per esempio, Financial Times che prostitute, droga e enti di beneficenza sono le nuove fonti di crescita economica a livello statistico della Gran Bretagna. Non è proprio un accostamento ortodosso, naturalmente, però l'Office for National Statistics, invitando, ripeto, implicitamente anche altri istituti di statistica e magari anche Eurostat a fare lo stesso, ha ricalcolato un po' tutto. Per esempio, guardiamo la prostituzione, che è un po' l'aspetto più particolare. Sapete che poi anche in questi giorni è argomento caldo in Italia, ci sono molte proposte di legge per non tanto legalizzare, perché la prostituzione è legale, è illegale il suo sfruttamento, ma per regolarizzarla in modo che anche le prostitute paghino le tasse. Ecco, per esempio, la prostituzione, scrive Financial Times, aggiungerà 4,4 miliardi di sterline al PIL britannico. A proposito, torniamo un pochino a Jean-Claude Juncker, saltiamo un po' qui e là, però appunto ho trovato davvero tanti articoli. Ecco, la Westdeutsche Allgemeine Zeitung, che è un quotidiano sicuramente non uno dei principali quotidiani tedeschi, però è un importante quotidiano, e un europarlamentare, Elmar Brok, che è della CDU, quindi del Partito dei Popolari, ha detto: è assolutamente chiaro che il prossimo presidente della Commissione europea sarà Jean-Claude Juncker. Sapete che anche Angela Merkel continua a sostenere Juncker, è una posizione che comincia a sembrare fin troppo rigida a molti. Angela Merkel poi sappiamo che ha un problema di popolarità, insomma, non credo desideri continuare a essere vista come la strega cattiva d'Europa, e allora deve stare, secondo me, molto attenta a questo sostegno incondizionato a Juncker, e poi di tutti i suoi, magari, appunto, parlamentari più realisti del re, che lo sostengono perché lei lo sostiene. Una buona notizia, concludo con una buona notizia, ricorderete il sito Press Europe che era stato chiuso per mancanza di fondi, ha riaperto e allora proprio da Press Europe vi segnalo un articolo apparso su Wall Street Journal che spiega come per evitare una potenziale inchiesta antitrust in Europa, Facebook ha chiesto alle autorità dell'Unione Europea di esaminare l'accordo da 19 milioni di dollari sull'acquisto del servizio di instant messaging WhatsApp, una specie di anticipazione dell'antitrust, insomma, come se Facebook dicesse: guardate, abbiamo fatto tutto per bene, non vogliamo sorprendere. Prese, se avete delucidazioni, chiedetecele. Era l'ultima segnalazione che riesco a farvi. Vi auguro un buon sabato, una buona domenica e ci sentiamo settimana prossima. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.